sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Si apre il processo al mostro austriaco alla sbarra, il padre che tenne segregata la figlia per 24 anni e le dette 7 figli. Un preaccordo in attesa di Kadima. In Israele il governo potrebbe essere formato da Likud ed estrema destra con Lieberman agli esteri. Leggi e risorse sotto accusa dopo la morte del bambino azzannato dai cani. Non abbiamo soldi per i canili, dice il sindaco. Tra poco l'intervista al sottosegretario Martini. Crisi, 600.000 posti di lavoro persi in Europa nell'ultimo trimestre del 2008. Giornata positiva invece per le borse, con rialzi superiori al 2%. Il Banco Popolare annuncia l'OPA su Italise per farla uscire dal listino. Nel fine settimana esce nelle sale Forte Apache il film di Marco Risi sull'uccisione del giornalista anticamorra Giancarlo Siani. Tra poco sentiremo la voce del regista. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E una buona giornata anche da Simone Spezia. Apriamo andando all'estero, perché si è aperto oggi sotto le telecamere della stampa internazionale il processo al padre Joseph Fritzl. L'ingegnere austriaco 73enne si trova sul banco degli imputati accusato di omicidio, privazione di libertà, abusi e riduzione in schiavitù. Tutto questo per avere rinchiuso la figlia Elisabeth in un sotterraneo per 24 lunghissimi anni e anche per abusi. Fatto avvenuto a Darmstetten, città di poco più di 23.000 abitanti nel land centro-settentrionale della Bassa Austria. Ci racconta tutto Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno. È entrato in aula in silenzio, con il viso nascosto, Joseph Fritz, 73 anni, l'uomo, come dicevate, che per 24 anni ha tenuto segregata e ha violentato la figlia Elisabeth, che oggi ha 43 anni, e l'ha messa incinta 7 volte. Una storia atroce. La ragazza ha dovuto partorire da sola 7 figli nella sua cella sotterranea ad Amstetten in Austria. Uno di questi bambini è morto poco dopo la nascita, e per questo Fritz, essendosi rifiutato di portarlo in ospedale, è accusato anche di omicidio e rischia all'ergastolo. Fritz è inoltre accusato di sequestro di persona, riduzione in schiavitù, segregazione. La stanza del tribunale in cui si svolge l'udienza è piccola, piena di persone. Sono stati ammessi 95 giornalisti senza telecamere o macchine fotografiche. La sentenza è attesa per giovedì o venerdì. Fritz si è dichiarato colpevole di stupro, incesto, segregazione, ma non di omicidio colposo e riduzione in schiavitù. In aula sarà interrogato solo lui, invece sarà ascoltata con una videoregistrazione la figlia Elisabeth, che dicevamo oggi ha 43 anni. 11 ore di nastro per raccontare 24 anni di orrore. Né lei né i figli dell'incesto compariranno dunque al processo. Sia la donna che i figli si trovano su loro richiesta adesso nella stessa clinica psichiatrica dove erano stati ricoverati subito dopo la loro liberazione. Hanno cercato lì rifugio per sfuggire proprio all'attacco dei media. Elisabeth, lo ricordiamo, aveva 18 anni quando il padre, all'epoca 49enne, la chiuse in una cella sottoterra, una cella di 60 metri quadri senza finestre, da lui ricavata dietro la cantina di casa. Alla moglie, anche ai vicini, la moglie tra l'altro con la quale aveva avuto 7 figli, ai vicini di casa, dicevo, Fritz aveva raccontato che la figlia era fuggita con una setta. Nel corso degli anni aveva portato 3 figli dell'incesto a sua casa, dicendo che la figlia non li poteva allevare, e gli altri 3 sono rimasti con la madre e non hanno mai visto la luce del sole fino alla loro liberazione avvenuta il 26 aprile del 2008. Grazie Cristina per questi aggiornamenti. Noi restiamo all'estero, ma per cambiare completamente argomento e parlare di politica interna israeliana, Alessio. Sì, perché il Likud, il partito di destra del primo ministro incaricato Netanyahu, ha concluso nella notte il suo primo accordo di coalizione con il partito di estrema destra, il partito di Lieberman. Salutiamo Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Che cosa può significare questo primo accordo? Un irrigidimento, per esempio, nei confronti della parte palestinese? Tra l'altro oggi ci sono dichiarazioni anche a commento da parte di paesi europei, tra cui l'Italia, su questa possibilità. Ugo? Beh, certo, questo è solo un accordo minimo. Cioè, nel caso in cui si formerà questo governo di destra, di estrema destra, bisogna dire, in questo caso, in quel modo, come è stato stabilito l'accordo, il Likud, soprattutto il principale partito di estrema destra, quello di Lieberman, si divideranno i ministeri, in particolare Avigdor Lieberman diventerà ministro degli esteri, ma naturalmente solo nel caso in cui si farà questo accordo, perché Bibi sa meglio di tutti quanti quanto sia improponibile un eventuale governo di destra in questo senso, anche perché il Likud non è tanto un partito moderato, perché il Likud è quello che resta del vecchio Likud, dal quale i moderati del Likud se ne andarono 3 anni fa per fondare il partito Kadima, quindi già il partito Likud è un partito molto di destra. Bibi Netanyahu sa che non potrebbe avere colloqui non solo con i palestinesi e con gli arabi, ma probabilmente difficilmente con l'Unione Europea e soprattutto con l'amministrazione Obama, e quindi sta facendo di tutto a rientrare, a ricambiare idea, a rientrare nei ranghi di un governo di unità nazionale nel quale lei sarebbe ministro degli esteri, ma lei sa perfettamente che in questo caso sarebbe comunque con un governo dove guidato da Bibi Netanyahu, il quale è assolutamente, continua ad essere assolutamente contrario alla nascita di uno Stato palestinese, che è la condizione sine qua non per la quale tutti i paesi europei, anche l'Unione Europea, giusto ieri lo diceva, è la condizione sine qua non per giudicare la qualità del governo israeliano. Grazie Ugo Tramballi, quindi la questione del governo israeliano è tutt'altro che chiusa. Parlavamo della controparte palestinese, oggi Hamas e Al-Fatah, che si dividono il controllo dei territori, hanno raggiunto un accordo per svolgere il 25 gennaio 2010 le elezioni legislative e presidenziali dell'autorità palestinese. Le due fazioni hanno trovato un'intesa insieme alle fazioni minori nel corso dei lavori di uno dei sei comitati costituiti al Cairo nell'ambito dei colloqui per la riconciliazione nazionale. È in visita in queste ore al Cairo il presidente del Senato, Renato Schifani. E allora andiamo in Egitto con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, la cronaca, buongiorno. Buongiorno, un colloquio durato un'ora, quello tra il presidente egiziano Mubarak e quello del Senato italiano Renato Schifani, che assicura il pieno sostegno politico al governo egiziano. Soprattutto Schifani ribadisce la visione comune a favore di un governo di unità nazionale palestinese, importante appunto, come avete detto voi da studio, in questi giorni di insediamento del nuovo governo israeliano, sempre nel quadro però di una pace possibile israeliana. Schifani ha trovato Mubarak consapevole del grande sforzo e anche di poter contare sul sostegno internazionale, un Mubarak, ha detto Schifani, determinato, ma poi ha parlato anche di problemi di politica interna, Simone. Sì. Allora, ha detto, stiamo attivando una riforma dei regolamenti che possa essere condivisa, lo scopo della presidenza del Senato è quello di velocizzare l'iter legislativo, dare certezza dei tempi al governo e diminuire quindi la decretazione d'urgenza, ma non si tratta di instaurare una repubblica presidenziale che passa invece attraverso la riforma costituzionale, bisogna vedere quale sarà il clima dopo le europee, e Schifani auspica in un clima di condivisione. Infine il presidente Schifani ha poi chiesto soluzione del caso di Patrizia Ravarotto, sposata e separata con un egiziano, scappato con il figlio comune. E qui dal Cairo per il momento è tutto, io mi trovo adesso nel Senato qui al Cairo, dove c'è di nuovo un incontro con la stampa tra il presidente del Senato egiziano e il nostro presidente Schifani. Grazie Elisabetta Fiorito, passiamo alle nostre quotidiane cronache dalla crisi, Alessio. Sì, veniamo, diamo i numeri, insomma, e sono sempre numeri negativi anche questa volta. In calo l'occupazione in Europa, la discesa è stata, secondo i dati di Eurostat, dello 0,3%, il che corrisponde a un 600.000 posti di lavoro in meno nell'Europa considerata 27, 453.000 in meno invece nella sola area euro. E di crisi e di occupazione si è parlato oggi alla presentazione del rapporto IRES-CGL, presentazione che ha seguito per noi il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. È un quadro non certo incoraggiante per il mondo del lavoro quello che viene tracciato dalle stime sulla recessione e sull'occupazione elaborate dall'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della CGIL. Il prodotto interno lordo alla fine del 2010 potrebbe far segnare un meno 4% rispetto al 2007, anno ancora di pre-crisi. Il tasso di disoccupazione crescerebbe parallelamente, 9% quest'anno, 10,1% nel 2010. In tre anni, secondo l'IRES CGIL, vi sarebbe 1 milione di disoccupati in più, aumentando di fatto anche la quota dell'instabilità occupazionale. Nell'ambito di questa difficoltà generale, indica sempre l'Istituto di Ricerche Economiche, vi sono segmenti ed aree geografiche che pagheranno di più la negativa congiuntura internazionale. Tra chi è a rischio del posto di lavoro vi sono i precari, e tra questi i giovani e le donne, i lavoratori con titolo di studio medio-basso. L'area geografica più colpita potrebbe essere il Mezzogiorno, ma a risentirne saranno anche le regioni più industrializzate, tra tutte il Veneto. Le assunzioni qui hanno già subito una flessione del 10%. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E invece qualche numero positivo arriva dall'andamento della borsa, che oggi appunto è piuttosto frizzante. Per quanto riguarda Piazza Affari, domina il caso Italease, quindi fare puntati su Banco Popolare. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno, hai utilizzato l'aggettivo giusto. Giornata frizzante, brillante oggi in Europa. Il mercato europeo reagisce così anche alla chiusura positiva di Wall Street di venerdì scorso, la quarta seduta positiva archiviata appunto dal mercato americano. Bene stamattina anche anche l'Asia, abbiamo rialzi di circa 2 punti percentuali abbondanti sui listini europei, mentre Milano spicca con un rialzo ben maggiore, più 2,8%, ha superato poco fa l'S&P MIB, anche un rialzo del 3%, il MIB tiene in guadagno del 2,53%. Spiccano i rialzi dei titoli del comparto bancario, Unicredit e Banca Intesa in particolar modo stanno guadagnando 6,5 punti. I due gruppi si dovrebbero accingere a breve ad annunciare la possibilità di fare ricorso ai Tremonti Bond, niente di ufficiale, solo indiscrezioni giornalistiche, ma il mercato sembra abbastanza convinto di questa opzione. Opzione che invece è stata formalizzata nei giorni scorsi dal Banco Popolare, che oggi a Piazza Affari cede il 5,28%. Questa è la reazione del mercato all'offerta pubblica di acquisto lanciata su Banca Italise, notizia attesa. Il gruppo sarà delistato e poi riorganizzato, ma forse il prezzo pagato è un po' alto, 1,50 euro per azione, e forse questo è il motivo per cui oggi il titolo del Banco Popolare scende di circa 5 punti, mentre il Banca Italise cresce dell'11,25%. È tutto. Grazie Deborah, notizie positive dalla borsa, ma più in generale, cerchiamo di dirlo sempre più spesso, la crisi economica porta anche qualche novità positiva, per esempio una maggiore attenzione ai consumi, al risparmio, agli stili di vita cosiddetti sostenibili e consapevoli. Sembra essere proprio questa la chiave, per esempio, del successo che ha avuto la fiera che si è chiusa ieri a Milano, Fa la cosa giusta. Mai così tanti e record di visitatori per Fa la cosa giusta, 50.000 persone, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Tutti interessati al consumo critico e agli stili di vita sostenibili che, tradotti in esperienze concrete, vogliono dire commercio equo e solidale, finanza etica, mobilità sostenibile, agricoltura biologica, eco-fashion, software libero, turismo solidale, bioedilizia, economia carceraria, co-housing. Consumare meglio per consumare meno, il claim di questa sesta edizione nel bel mezzo di una crisi che ha reso più fertile il terreno del consumo critico. Il sociologo dei consumi Gianpaolo Fabris. Certamente sta prendendo piede un nuovo modo di consumare che prende le distanze da quello tradizionale, dal consumismo acritico, un po' compulsivo. Ho qualche perplessità sul termine critico, perché spesso si pensa a quello degli ambientalisti, un po' talebani, massimalisti, un po' polpottisti. Certamente c'è un nuovo modo di consumare e la crisi che stiamo attraversando ha avuto un effetto maieutico. Aria nuova dunque, il fatto è che il sistema produttivo, aziende, comunicazione, marketing sembra non essersene accorto. L'obiettivo anzi è riproporre lo statu quo, un continuo appello alla ripresa dei consumi, che a mio modo di vedere è scorretto, perché non bisogna impegnarsi a una ripresa dei consumi to cure, ma essere selettivi. C'è l'emergere di un nuovo business model low cost, ma un low cost ad alto valore. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. È cominciato oggi in Austria il processo a Josef Fritz, il padre mostro che per 24 anni ha tenuto segregata la figlia, l'ha violentata e le ha dato 7 figli nipoti. L'uomo ha ammesso lo stupro e l'incesto, ma respinge le accuse di omicidio colposo e riduzione in schiavitù. L'Istat conferma la frenata dei prezzi, a febbraio l'inflazione ferma all'1,6%, lo stesso valore di gennaio, cala il prezzo della pasta, tornano a salire invece dello 0,2% i prezzi dei prodotti energetici. In Europa, nuova battuta d'arresto per l'occupazione. Nel quarto trimestre del 2008 si sono persi 453.000 posti nell'area euro. Il GIP di Milano, Paolo Ielo, ha disposto nuove indagini a carico del sindaco del capoluogo lombardo Letizia Moratti e di altre 4 persone nell'ambito dell'inchiesta del PM Robledo su presunte irregolarità nell'affidamento di consulenze da parte del comune di Milano. Letizia Moratti deve rispondere di abuso d'ufficio. In Pakistan stanno festeggiando i partigiani del leader dell'opposizione Nawaz Sharif, che ha ottenuto il ripristino di alcuni giudici rimossi dall'ex presidente Musharraf. Il leader della Lega Musulmana è in auto in corteo verso Islamabad. Il Likud, il partito di destra israeliano del primo ministro designato Netanyahu, ha concluso nelle ultime ore un accordo di coalizione con la formazione della destra radicale guidata da Lieberman. In base a questo accordo, il terzo maggior partito di Israele dopo il voto dello scorso 10 febbraio dovrebbe ottenere 5 ministeri. Dopo la morte di un bambino di 10 anni azzannato da un branco di cani nel Ragusano, parla di tragedia annunciata, il sindaco di Scicli. Da tempo gli abitanti della zona avevano segnalato la presenza di animali allo stato brado. Nei mesi scorsi c'erano già state aggressioni e denunce.

Beh, ci fermiamo qua, sottosegretario Martini. Grazie, naturalmente. Poi, insomma, staremo a vedere, perché forse qualche responsabilità allora c'è e va naturalmente chiarita. Grazie ancora. Adesso parliamo però di politica, Simone. Sì, passiamo alle europee, perché la sinistra ci riprova. Arriva un nuovo cartello dei partiti rimasti fuori dal Parlamento alle ultime elezioni politiche del 2008, in qualche modo in cerca di rivincita. Andrea Viali, in cosa consiste questo cartello elettorale? Allora Simone, intanto si chiama Sinistra e Libertà, il logo è un cerchio metà rosso e metà bianco con all'interno i simboli delle formazioni politiche che ne fanno parte, che sono i Verdi, la Sinistra Democratica, il Movimento per la Sinistra di Nichi Vendola e il Partito Socialista di Riccardo Nencini. La lista unitaria che correrà, lo dicevate, alle europee del 6 e 7 giugno è stata presentata stamattina a Roma dopo un accordo politico che era stato raggiunto la scorsa settimana. Non sarà soltanto un cartello elettorale, ha spiegato la portavoce dei Verdi, Grazia Francescato, sentiamola. Non è soltanto un escamotage elettorale, è un'alleanza elettorale che mette insieme le ragioni dell'ambiente e le ragioni del lavoro e che vuole dare una risposta a questa crisi non a base di spot pubblicitari come fa Berlusconi, ma risposte autentiche, reali. Per esempio la riconversione ecologica dell'economia, che si traduce anche in milioni di posti di lavoro. Ecco, obiettivo minimo di Sinistra e Libertà è naturalmente quello di superare lo sbarramento del 4%, ma il vero obiettivo è soprattutto quello di riportare la sinistra al centro della vita politica, ha sottolineato invece il governatore della Puglia, Vendola, sentiamolo. C'è bisogno qui di sinistra per difendere le persone, per difendere i diritti civili, per difendere i diritti sociali che sono gravemente conculcati. Noi siamo scomparsi dalle istituzioni e questo pesa non per il ceto politico, pesa nella vita delle persone. Questo consente un'aggressione al mondo del lavoro che non ha precedenti. Questo mette la destra nella condizione di spadroneggiare attraverso l'uso del sistema informativo, dipingendo il governo Berlusconi come impegnatissimo nel risolvere i problemi della crisi, che invece sono problemi che stanno scavando una trincea immensa di povertà in Italia. E grazie Andrea Viali per questo racconto. Passiamo adesso alle pagine dei giornali internazionali. Sì, e perciò salutiamo la nostra Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Buongiorno. Allora, dal Wall Street Journal ci parli di una notizia che fa sicuramente arrabbiare un sacco di gente, insomma. L'apertura del Wall Street Journal e anche di Financial Times. Il Wall Street Journal parla di una vera e propria rabbia per questi bonus annunciati dalla AIG, l'American International Group, il gruppo assicurativo che è stato salvato dal governo americano e che adesso si appresta, a fronte di una perdita 2008 di 40,5 miliardi, si appresta a dare bonus per 450 milioni. Il presidente di AIG, Edward Libby, ha assicurato al segretario del Tesoro americano che in realtà non si può fare niente perché erano stati tutti decisi prima da regole interne. Questo non ferma quello che invece Financial Times chiama lo scandalo per questi bonus che il Financial Times quantifica in 165 milioni di dollari, un po' meno del Wall Street Journal, tanti soldi comunque. A proposito di scandali, Giulia, brevemente la questione Garzon, che continuiamo a seguire con una certa passione. Che cosa è successo? Una volta è il Mondo che ne parla, l'ultima volta che ne abbiamo parlato era su El País, seguivamo come lui desse la caccia a quelli che considera funzionari corrotti del Partito Popolare. Questa volta però è lui che ha fatto un passo falso, avrebbe accettato un viaggio gratuito con tanto di ristorante a 5 stelle per tenere una conferenza del sindacato organizzata dal sindacato per la modicissima cifra di 12.000 euro per parlare un'ora, e quindi insomma un'ombra di sospetto su questo giudice così castiga cattivi costumi. Alla fine è cascato anche lui un po' insomma in una vicenda non proprio trasparente. Adesso Giulia, dal Guardian una notizia che riguarda la Corea del Nord, ma anche l'Italia forse in qualche modo ci può anche inorgoglire, non lo so, sentiamo. Sì, insomma in Corea del Nord pare, io non ci sono mai stata, che sia difficilissimo trovare ristoranti in generale, soprattutto ristoranti stranieri, ma Kim Jong-il ha una passione per la pizza e pare anche molti altri membri del partito. Così riferisce un giornale pubblicato in Giappone che parla di fatti coreani, sappiamo quanto è difficile avere informazioni attendibili sulla Corea del Nord, è stata aperta questa pizzeria, la prima pizzeria, era 10 anni che si cercava di ottenere questo grande risultato. Il problema naturalmente è che ai cittadini comuni sicuramente sarà troppo cara per loro, quindi sarà riservata a Kim Jong-il e agli altri golosastri di pizza del partito, ma a ben poche altre persone. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. È cominciato oggi in Austria il processo a Josef Fritzl, il padre mostro che per 24 anni ha tenuto segregata la figlia, l'ha violentata ed ha dato 7 figli nipoti. L'uomo ha ammesso lo stupro e l'incesto, ma respinge le accuse di omicidio colposo e riduzione in schiavitù. In Europa, nuova battuta d'arresto per l'occupazione nel quarto trimestre del 2008. Si sono persi 453.000 posti. La CGIL stima un tasso di disoccupazione del 9,3% nel 2009 e oltre il 10% nel 2010. Il GIP di Milano, Paolo Ielo, ha disposto nuove indagini a carico del sindaco Letizia Moratti e di altri 4 persone nell'ambito dell'inchiesta del PM Robledo su presunte irregolarità nell'affidamento di consulenze da parte del comune del capoluogo lombardo. La Moratti deve rispondere di abuso d'ufficio. Il Likud, il partito di destra israeliano del primo ministro designato Benjamin Netanyahu, ha concluso nelle ultime ore un accordo di coalizione con la formazione della destra radicale guidata da Avigdor Lieberman. In base a questo accordo, il partito di estrema destra dovrebbe ottenere 5 ministeri. Dopo la morte di un bambino di 10 anni azzannato da un branco di cani nel Ragusano, parla di tragedia annunciata. Il sindaco di Scicli, da tempo gli abitanti della zona avevano segnalato la presenza di animali allo stato brado e nei mesi scorsi c'erano state aggressioni e denunce. Manca una legge, se c'è non va bene, ha accusato il sindaco ai microfoni di Radio 24. Non conosce la normativa, la responsabilità è sua, è stata la replica sempre a Radio 24 del sottosegretario alla salute Martini. L'inflazione a febbraio è rimasta stabile all'1,6%, stesso dato registrato a gennaio. La comunicazione dell'Istat, che ha confermato la stima preliminare, dunque tra i prezzi in diminuzione quello della pasta, -1,5%, torna a crescere invece la benzina, che ha segnato sempre a febbraio un marcato aumento congiunturale, come si legge nel comunicato dell'Istat, che equivale a un +2,4%. E sempre a proposito di crisi, facciamo un passo indietro. Ieri l'altro le parole di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che ha chiesto soldi veri per affrontare la crisi. Ieri la replica del Presidente del Consiglio: abbiamo dato soldi verissimi, ma quali sono allo stato le misure messe in campo dal governo e che cosa chiedono gli industriali? Sentiamo. In provincia di Udine sono circa 80 le aziende ricorse alla cassa integrazione. In Lombardia le imprese del tessile in difficoltà sono 500, quelle del chimico 236. In Piemonte ci sono oltre 500 aziende che denunciano la crisi industriale. In Toscana le imprese alle strette sono quasi 800. La presidente di Confindustria chiede soldi veri. Il presidente del Consiglio risponde che i soldi veri sono già arrivati. In questi mesi però le domande e le risposte sono state un po' diverse. Gli industriali hanno chiesto al governo di pagare subito i debiti nei confronti delle aziende, cioè quei 70 miliardi che la pubblica amministrazione ha accumulato in questi anni. Il governo ha risposto che i soldi dovuti sono molti in meno. Viale dell'Astronomia ha chiesto un fondo di garanzia statale per il credito alle piccole e medie imprese da 5 miliardi di euro. Il governo ha promesso 450 milioni. Gli imprenditori hanno chiesto anche il rinvio del pagamento dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, per un anno. Su questo nessuna risposta. Dal canto suo Palazzo Chigi ricorda gli investimenti messi a punto, gli incentivi per riavviare i consumi con misure per circa 2 miliardi di euro, contributi per acquistare auto, veicoli commerciali, motocicli, impianti a GPL o metano, ma anche per arredamento ed elettrodomestici, a patto che si ristrutturi la casa. Poi ci sono i 9 miliardi stanziati per gli ammortizzatori sociali, una somma raggiunta dopo l'accordo con le regioni che hanno dirottato il FAS, Fondo Aree Sottoutilizzate. Le infrastrutture beneficeranno dello sblocco di circa 18 miliardi. Le banche avranno a disposizione i Tremonti Bond per una somma che oscilla tra i 10 e i 12 miliardi a un tasso dell'8,5% per favorire il credito alle imprese. E poi c'è il piano casa. Il governo studia misure per rilanciare il settore edilizio, come l'ampliamento del 20% della cubatura di case e capannoni, che arriva fino al 30% nel caso si tratti di edifici costruiti prima del 1989. Sconti fiscali e una burocrazia più snella. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. E in Francia la crisi prende anche la forma della protesta sociale. Riesplodono le tensioni nelle banlieue, mentre si acuisce anche la questione degli sfratti, il tutto in vista di uno sciopero generale. Ne parliamo con Attilio Geroni, corrispondente da Parigi. Attilio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qual è la tua visione su questi fatti? Ma è che stanno giungendo a maturazione una serie di tensioni, di malumori che sono percepibili in questo paese da alcuni mesi. E come sappiamo, in Francia la piazza e le strade sono molto sensibili al disagio sociale. Ora, dopo un primo sciopero generale di gennaio, adesso il 19 marzo ci sarà un altro sciopero generale. E nella prima occasione non ci furono proteste, ma ci fu una grande partecipazione di massa, quindi il paese non è rimasto paralizzato, ma l'adesione è stata molto forte. Ci si attende anche questa volta un'adesione massiccia. E lo scenario è sempre lo stesso, la cronaca è uno stillicidio di annunci, di licenziamenti e di chiusure di imprese. I licenziamenti che hanno fatto scalpore sono quelli annunciati da Total la scorsa settimana, Total che peraltro ha registrato dei profitti record di 14 miliardi di euro, e la notizia della chiusura di uno stabilimento francese da parte della tedesca Continental, azienda che produce pneumatici, dopo che questi 2 anni fa avevano raggiunto un accordo dove venivano superate le 35 ore, quindi dove gli operai avrebbero dovuto lavorare, anzi hanno lavorato 40 ore alla settimana per evitare ristrutturazioni drastiche e licenziamenti. Questo non è servito, ed ecco un altro slogan famoso del presidente Sarkozy: lavorare di più per guadagnare di più, con la detassazione delle ore supplementari, che è naufragato nel mare di questa terribile crisi economica. Ne staremo a vedere. Grazie a Attilio Geroni. Adesso ci spostiamo in Pakistan, dove ieri c'è stata una marcia dell'opposizione, anche qua in piazza la protesta sociale, non solo. Ci sono stati degli scontri, il preludio di una rivoluzione, ha detto il leader dell'opposizione. Oggi nuovi sviluppi. Marco Masciaga, che succede? Penso che dopo 2 anni di battaglia sul tema dell'indipendenza dei giudici, finalmente questa mattina c'è stato un raggio di sole. Il governo ha compiuto quello che possiamo descrivere come il primo passo verso la ricomposizione di una crisi che ha rischiato di portarlo sull'orlo del collasso. La decisione è quella di reintegrare i giudici che furono sospesi nel 2007 dall'allora presidente Pervez Musharraf. Il governo in questo modo ha evitato di prendere parte a una sfida con l'opposizione che aveva già un vincitore morale, ovvero l'ex primo ministro Nawaz Sharif, che in questo momento è il politico più popolare del paese. Oggi il Pakistan si trova quindi con un ordine giudiziario rinvigorito, un'opposizione trionfante e un governo invece ferito e umiliato. Tutti elementi che non renderanno la vita facile ad Asif Ali Zardari, il vedovo di Benazir Bhutto, che è il presidente in questo momento ed è la persona che in questi prossimi mesi rischia di veder riaprire nei suoi confronti una serie di casi di corruzione mai risolti che risalgono agli anni 90. Nonostante questo, gli investitori hanno però accolto con sollievo il disinnescarsi della crisi e oggi il Karachi Stock Exchange, dopo aver perso il 58% del proprio valore nel 2008, è risalito di 5 punti percentuali. Grazie Marco Masciaga per questa corrispondenza. Adesso parliamo di cinema, perché esce nel prossimo fine settimana Fort Apache, il nuovo film di Marco Risi. Questa sera l'anteprima a Napoli, città o proprio nel napoletano, nei dintorni. Là è stato insomma girato e ambientato. 4 mesi di vita di un giovane giornalista nel 1985 a Torre Annunziata. Il ragazzo era Giancarlo Siani e quelli erano i suoi ultimi giorni prima di essere ucciso dalla camorra. Ormai Valentino Giunta è il boss indiscusso della camorra a Torre Annunziata. Mi piace? Sono Giancarlo Siani. Al cinema con Fort Apache racconta quei giorni Marco Risi. Questa storia nasce intanto 6 anni fa ed era un progetto che veniva da un libro di Antonio Franchini che si chiamava L'Abusivo. Da lì è stato fatto un trattamento da Jim Carrington e Andrea Purgatori che conteneva gli elementi per farne un film. Lì ci siamo messi al lavoro e il film che si sarebbe dovuto fare 4 anni fa invece siamo riusciti poi a girarlo oggi. Ogni mossa va pesata e ormai se ne sono conto noi di dove siamo. Questo è Forte Apache. Ma chi è questo giornalato? Sono giornalista di un cazzo. Che ci dobbiamo fare? Una tirata d'orecchio. Ma qua tirata d'orecchio. Questa sera Fort Apache sarà presentato in anteprima a Napoli con esponenti della magistratura, parenti delle vittime di Camorra e il fratello di Siani, Paolo. Lui aveva già letto la sceneggiatura 5 anni fa e è stato un momento molto commovente per lui. Ci sono cose che noi diciamo nel film, che facciamo dire a Giancarlo Siani come pensieri, che sono le cose che lui ha riconosciuto come sue. Poi quando ha visto il film sono rimasto molto toccato, gli è piaciuto molto. 3, 2, 1 Fort Apache di Marco Risi con Libero De Rienzo sarà nei cinema da venerdì. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. È cominciato oggi in Austria il processo a Josef Fritzl, il padre mostro che per 24 anni ha tenuto segregata la figlia, l'ha violentata e le ha dato 7 figli. L'uomo ha ammesso lo stupro e l'incesto, però respinge le accuse di omicidio colposo e riduzione in schiavitù. La CGIL stima un tasso di disoccupazione del 9,3% nel 2009 e di oltre il 10% nel 2010. In Europa, nuova battuta d'arresto per l'occupazione nel quarto trimestre del 2008, si sono persi 453.000 posti nell'area euro. In Pakistan festeggiano i sostenitori del leader dell'opposizione Nawaz Sharif, che ha ottenuto il ripristino di alcuni giudici rimossi dall'ex presidente Musharraf. Il leader della Lega Musulmana in auto in corteo verso Islamabad. In attesa di una risposta definitiva da parte del partito Kadima, il Likud, partito di destra israeliano del primo ministro designato Benjamin Netanyahu, ha concluso nelle ultime ore un accordo di coalizione con la formazione di destra radicale guidata da Avigdor Lieberman. In base a questo accordo, il partito di estrema destra dovrebbe ottenere 5 ministeri. Dopo la morte di un bambino di 10 anni azzannato da un branco di cani nel Ragusano, parla di tragedia annunciata al sindaco di Scicli. Da tempo gli abitanti della zona avevano fatto denunce, c'erano state aggressioni. Manca una legge, ha detto ai microfoni di Radio 24. Non conosce la normativa, la responsabilità è sua, è stata la replica sempre a Radio 24 del sottosegretario alla salute Martini. Vi accennavamo prima che si svolge a Istanbul il quinto forum mondiale dell'acqua. Secondo alcune stime, entro il 2030 quasi la metà della popolazione mondiale potrebbe rimanere assetata. Tra poco cercheremo di collegarci con la nostra Marta Ottaviani in diretta da Istanbul, ma prima di tutto parliamo di elezioni iraniane. Sì, andiamo proprio in Iran, dove ci si prepara alle presidenziali e dove l'ex presidente Khatami sembra aver dato forfè. All'origine della rinuncia alla candidatura di Mohammad Khatami alle presidenziali iraniane ci sarebbe una sorta di intesa con i conservatori delusi dall'attuale capo di Stato Mahmoud Ahmadinejad. Stando a fonti citate dal giornale arabo Al-Hayat, ambienti conservatori decisi ad uscire dall'impasse in cui si trovano starebbero lavorando per la formazione di un governo di unità nazionale. In cambio di un ritiro di Khatami, così da far posto al più gradito candidato riformista l'ex premier Amir Hussein Mousavi, i conservatori si sarebbero impegnati a convergere su un candidato alternativo ad Ahmadinejad, visto ormai come ostacolo all'uscita del paese dalla crisi con la comunità internazionale per la questione nucleare. Adil Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ecco, come detto, allora ci colleghiamo con Marta Ottaviani, andiamo a Istanbul per il quinto forum mondiale dell'acqua. Marta, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Si è aperto questa mattina il quinto forum mondiale dell'acqua che si concluderà il prossimo 22 marzo. L'obiettivo degli organizzatori è quello di trovare nuove soluzioni a livello globale per lo sfruttamento delle risorse idriche. Nella cerimonia di apertura di questa mattina il Presidente della Repubblica Abdullah Gül è stato chiaro, ha ricordato quale ruolo l'acqua fondamentale, l'acqua giocherà negli equilibri geopolitici del futuro e come la popolazione a livello globale abbia accesso in modo diseguale a questa risorsa. L'inizio della manifestazione è stata accompagnata da uno stuolo di polemiche. Ieri a Istanbul circa 3.000 manifestanti si sono riuniti per protestare contro la politica idrica del governo islamico moderato, denunciando in particolare i progetti per la costruzione di dighe in siti di particolare valore naturalistico e storico. L'accusa contro l'esecutivo è proprio quella di voler sfruttare, diciamo, come una vetrina questa manifestazione per finanziare i primi cantieri. Per il momento da Istanbul è tutto, vi restituisco la linea. Grazie alla nostra Marta Ottaviani. E è venuto il momento, sono le 13:51 minuti, invece facendo un salto insomma logico e chilometrico in Italia, consigli per il pranzo del nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Bologna, in via del Falignami, al Caminetto d'Oro, una trattoria con una lunga storia che in questo momento, anzi negli ultimi anni, ha sposato la cucina bolognese con alcune specialità abruzzesi, dato che la cuoca è appunto di questa regione. Bene, cosa si mangia? Innanzitutto salumi super selezionati come la culaccia, servita con fichi caramellati, caprino fresco, il culatello, ma ancora tra i primi ovviamente, essendo Bologna, tagliatelle e tortellini in brodo di cappone, oppure anche spaghetti alla chitarra con ragù d'agnello, appunto alla moda abruzzese. E ancora per secondo carni di fassone e poi ancora una serie di dolci che sicuramente ripropongono la tradizione bolognese. Buona la carta dei vini. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Alessio Maurizi, con in regia Fabio Cantadori e al coordinamento Daniele Biacchesi. E vi ricordo che se volete scriverci potete farlo, come sempre, extralarge@radio24.it è l'indirizzo. Se volete riascoltarci, www.radio24.it, sito nel quale trovate naturalmente, oltre a questa edizione del giornale radio, anche tante altre cose. Il GR Extra Large torna domani alle 13, invece il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 15. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.